Ingrid. Passarono 3 giorni prima che Tommy si facesse rivedere a casa. Fino a quel momento, Ingrid dedicò ogni secondo a rifinire il piano che aveva ideato. Quando sentì aprirsi la porta d'ingresso, rimase seduta tranquilla al tavolo della cucina. Lui infilò la testa nella stanza, la guardò ed entrò a passi lenti. «Resta calma», si disse Ingrid. «È fondamentale che resti calma». Tommy scostò una delle sedie, facendo bene attenzione, come suo solito, a sollevarla di un paio di centimetri per non fare rumore. Si sedette e le piantò gli occhi addosso. Lei aspettò qualche secondo. Aveva promesso di amarlo nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non li avesse separati. Ed era una promessa che aveva intenzione di mantenere. Lui si schiarì la gola. «Da quanto tempo lo sai?» «Un paio di settimane», rispose lei a bassa voce. «Perché? Perché non hai detto niente?» «Cosa avrei dovuto dire, Tommy?» «Qualcosa, qualunque cosa, invece di cercare di... uccidermi», rispose lui scuotendo lentamente la testa. «Non avevo intenzione di ucciderti, e nemmeno lei. Ero solo così arrabbiata, così triste». «E ora?» «Più che altro triste». Ingrid passò un'unghia sul tavolo. «Mi lascerai?» Tommy posò una mano sulla sua. Era calda e grande, con piccole isolette pelose appena sopra le nocche. Un tempo, quando erano più giovani, Ingrid gliele toglieva con la ceretta. «Non vedo come altro potremmo uscirne». Ingrid gli strinse la mano. «Lovisa ha bisogno di te. Noi abbiamo bisogno di te», disse sforzandosi di rimanere impassibile. «Non puoi lasciarci adesso. Resta pure con lei, ma fa le cose come si deve. Mi rendo conto di non essere la persona più facile del mondo con cui vivere». Tommy batté le palpebre senza capire. «Stai dicendo che per te va bene?» Ingrid annuì. «Per il momento, se è quello che vuoi. Ma nessuno deve saperlo. Posso accettarlo, se significa che resti con me». Tommy faceva fatica a nascondere la sensazione di aver appena vinto alla lotteria. «Poveraccio», pensò Ingrid. «Povero, ometto, patetico».